Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Blocco subito. Erano le 18 di ieri quando dall'assemblea Fiumicino del Fronte del No, no alla nuova l'Italia, si è alzato questo coro. Era un gruppo di lavoratori, un gruppo che rappresenta qualche centinaio di lavoratori di Alitalia. Il risultato li vedete sotto gli occhi, li sentite anche in GR24, sciopero immediato, diversi voli cancellati, passeggeri molto arrabbiati, disagi che continuano anche oggi. È stata avviata la precettazione dal governo contestualmente, però torna anche una proposta: non è il caso di cambiare le regole sulla proclamazione dello sciopero, soprattutto nel sistema dei trasporti pubblici? Sapete che questa è una proposta che ha lanciato il ministro Sacconi di recente, annunciando ci vorranno nuove regole, soprattutto l'idea, per esempio, che bisogna proclamare fare un referendum consultivo tra i lavoratori prima di proclamare uno sciopero, oppure l'ipotesi che il lavoratore, soprattutto il lavoratore nei servizi pubblici, dichiari prima dello sciopero se intende aderire o no, in modo da avere un'idea di quanto sarà il grado di astensione e sapere, insomma, da parte di tutti gli utenti che cosa ci aspetterà l'indomani. Insomma, ne parliamo, se è il caso di riformare la legge sugli scioperi, che regolamenta gli scioperi proprio nel giorno in cui, come sentite, si prevedono nuovi disagi e ancora all'Italia, dunque doppio fronte. E poi sapete, ieri c'è stato un sciopero, questa volta tutto regolare, annunciato, previsto, che però ha bloccato moltissimo il trasporto locale in tutte le grandi città. Gli ospiti, voglio salutare Antonio Martone, che presiede la commissione di garanzia sullo sciopero dei servizi pubblici. Buongiorno Martone, benvenuto. Buongiorno a tutti. Così come saluto due esponenti politici, Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, Cazzola. Buongiorno. E il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, benvenuto. Buongiorno. E saluto poi l'arrabbiato, lo definisco così, ci spiegherà perché, ci parlerà e, insomma, si espone anche a tutte le critiche del caso, anche di tutta Italia. Fabio Frati è il coordinatore nazionale della CUB Trasporti, coloro che stanno creando disagi, diciamo così. Frati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Subito dopo la borsa partirò da lei, perché, insomma, ci deve spiegare com'è che poche centinaia di lavoratori stanno creando questi problemi. Alle 9:11 minuti parliamo della giornata di disagi e di scioperi di Alitalia, ma anche della proposta di rivedere forse la normativa che regola gli scioperi, soprattutto nei servizi di trasporto pubblico, nei servizi pubblici, la proposta soprattutto avanzata dal ministro Sacconi. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666. Fabio Frati, eccoci qua, coordinatore nazionale del CUB Trasporti. Quante persone rappresentate? Ma noi, diciamo, formalmente abbiamo tra i 700 e gli 800 iscritti. La nostra rappresentanza però è molto forte tra tutti i lavoratori precari di Alitalia, che sono quasi 4.000, e che però, insomma, noi non formalizziamo l'adesione, in quanto poi l'azienda non li richiamerebbe, perché siamo un sindacato che è fuori dai giochi concertativi e clientelari, per cui chi aderisce con noi rischia di non essere richiamato. E il problema poi, però, insomma, io penso che presenza di un sindacato e l'adesione dei lavoratori a un'organizzazione sindacale si misura anche sulle mobilitazioni che uno fa e il tipo di partecipazione che poi riceve quando ci sono scioperi, assemblee, eccetera. Lei dice un sindacato piccolo, però state creando diversi disagi. Forse ha sentito anche leggere 24, cancellazioni che continuano anche oggi, passeggeri molto arrabbiati, Libero che titola: e adesso licenziateli tutti. Ma non abbiamo i dubbi, insomma, che Libero titoli così. Insomma, sono due mesi che fa campagna contro i lavoratori all'Italia e contro i lavoratori d'Italia, praticamente prendendo a pretesto, insomma, presunti privilegi che avremmo noi poveri dipendenti di una compagnia massacrata. Dicevo, noi siamo logicamente rammaricati per quello che accade agli utenti, ai passeggeri, che purtroppo sono vittime di una guerra che qualcun altro e non noi ci ha dichiarato. Quelle cose che sono avvenute ieri non è che avvengono per caso, perché i lavoratori pagano di tasca loro, rischiano, perdono soldi e si espongono anche diciamo, a sanzioni che possono essere pesanti. Mi scusi, qualcuno ha sottolineato, ma contro chi, anche il ministro Matteoli, contro chi scioperate? All'Italia di fatto formalmente, l'Italia attuale non c'è più e non ci sarà più. La CAI non si è ancora costituita di fatto, cioè, insomma, si sa che si andrà verso quella direzione, ma ancora non c'è. Dunque, uno sciopero contro chi e contro cosa? Noi scioperiamo contro il governo e contro praticamente gli imprenditori che ha trovato il governo per, come dice lui, salvare l'Alitalia. Noi scioperiamo semplicemente per poche semplici cose. Noi vogliamo il rispetto della legalità, perché questi imprenditori che sono venuti, a Berlusconi gli ha consentito di non rispettare i contratti che valgono su tutto il territorio nazionale per tutti i competitori che CAI avrà. CAI è venuta, diciamo, lavorerà e opererà la sua attività commerciale in un settore in cui tutti i lavoratori sono inquadrati con un contratto di lavoro. Parlo del personale terra, che è la cosa più semplice. Tutte le aziende, diciamo, applicano un contratto nazionale che è uno dei più bassi d'Italia come retribuzione, perché, diciamo, a causa delle crisi che ci sono state, noi abbiamo subito un blocco salariale di più di 6 anni, più contratti di pari, contratti di solidarietà, per cui siamo i meno pagati, diciamo, in questa cosa. Senta, a livello europeo anche, per cui dicevo, tutti i competitori di CAI pagheranno i lavoratori 10. A CAI viene consentito di pagare i lavoratori 7. Sì, sta di fatto che voi effettivamente però esprimete una minoranza, nel senso, anche il fronte del no, le cosiddette 5 sigle sindacali si sono staccate da questa ipotesi che voi avete invece portato avanti, quella dello sciopero subito. Le chiedo però, perché così poi passo anche agli altri ospiti, è in arrivo la precettazione, che farete? Allora, due secondi, innanzitutto, diciamo, bisogna capire bene, c'è una differenza tra i lavoratori che, diciamo, si mobilitano per contenere quanto sta arrivando sulle loro spalle e il comportamento di sigle che, diciamo, che pensano solamente a come muoversi per poter avere, continuare a avere dei benefici. Va bene, della nuova, ok, ora, questa è la precettazione, veniamo alla precettazione. Diciamo, la precettazione, logicamente noi stiamo, la CUB, io sono rappresentante sindacale, noi abbiamo indetto uno sciopero rispettando le regole e le norme per il 25 novembre. Abbiamo condiviso il percorso che c'è stato ieri nell'assemblea, che non erano 180 persone perché la mattina ce n'erano 2000 e poi ragioneremo come ci siamo arrivati. Noi stiamo dando indicazione, visto quello che, diciamo, come si sono mosse le cose, ai lavoratori di rispettare l'indicazione del ministro e di rispettare la precettazione. Rispettare la precettazione, questo è importante. Presidente Martone, Presidente Commissione di Garanzia sullo sciopero dei servizi pubblici, lei ha già detto, insomma, da lì è partita la precettazione, questo sciopero è illegale, non è fuori dalle norme, fuori dalle regole, non si fa così, conferma, insomma, non c'è niente di... Confermo questo, ieri appena avuto notizia ho chiesto la presentazione immediatamente, perché oltretutto dai dati che abbiamo sono 300-400 persone che non solo stanno astenendosi dal lavoro, sia pure senza preavviso e violando le regole, ma se impediscono ad altri di andare a lavorare, oltretutto c'è creato anche un problema di interruzione del pubblico servizio, quindi anche un illecito penale. Che cosa rischia un lavoratore? L'esempio di ieri è emblematico, ieri c'è stato uno sciopero pesante, trasporto urbano, trasporto ferroviario, nel rispetto delle regole, quindi non è che si vuole impedire l'esercizio del diritto di sciopero, rispetto dalla Costituzione, compatibilmente con gli altri diritti dei cittadini. Quanto sta succedendo nel settore del trasporto aereo è al di fuori di ogni legge. Che cosa rischia un lavoratore che non dovesse rispettare la precettazione, anche se ci ha detto Frati che l'idea è quella di rispettarla, ma nel caso non lo facesse? Il lavoratore che non rispetta la presentazione rischia una sanzione di 500 di milioni al giorno, per ogni giorno in cui non rispetta la presentazione. Qualora un'organizzazione sindacale sia responsabile di questi comportamenti, può essere sanzionata con 50 milioni di lire, 25 mila euro al giorno, per comportamento di inadempimento all'ordinanza di precettazione. Le sanzioni, quindi, sono sanzioni pesanti. Ce ne sono state tante di sanzioni, sono poi effettive, vengono riscosse? Guardi, le sanzioni, dobbiamo distinguere le sanzioni che vengono applicate dalla Commissione, comunque ultimamente sono riscosse. Queste sono le sanzioni che deve erogare o il ministro o il prefetto, secondo chi è che ha adottato la presentazione. Se le eroga, queste poi possono essere riscosse sicuramente direttamente tramite anche gli uffici finanziari, come avviene per qualsiasi violazione del codice della strada, tanto per capirci. Sì. Gli italiani sono subissati oggi di cartelle per violazione del codice della strada. Diciamo che si tratta di seguire la stessa procedura. Le chiedo, Presidente, così poi vediamo la discussione anche meramente politica con Cazzola e Ferrero, la proposta che ha fatto Sacconi, o comunque l'idea di cambiare le regole per lo sciopero, per indire lo sciopero soprattutto del trasporto pubblico, per esempio l'idea che ci sia un referendum consultivo tra i lavoratori, poi dice Sacconi, poi si fisserà una soglia eventualmente discutendo con le parti sociali oltre la quale lo sciopero è consentito e sotto la quale forse no, l'idea di un referendum prima di indire lo sciopero, che ne pensa? Guardi, io credo che il diritto alimentare debba valere in alcuni settori. Pensiamo al trasporto aereo. Da adesso prescindiamo da quanto sta succedendo a Fiumicino, perché lì siamo al di fuori anche delle regole vigenti. Ma pensiamo al trasporto aereo. L'ente ENAV, i dipendenti dell'ENAV, i controllori di volo, che con poche decine di persone in sciopero possono bloccare tutto il trasporto aereo. Questo non può accadere e quindi coinvolgere 18-20 mila persone che sono addette al settore. Quindi, dove il processo produttivo del servizio è articolato in questo modo, è chiaro che non si può bloccare tutto il servizio e quindi va sperimentata quella del referendum preventivo, perché ci sia una certa percentuale di lavoratori che aderiscono allo sciopero, altrimenti diventa un po' anche una lotta a volte tra diverse organizzazioni sindacali. Tenga presente che quanto sta succedendo oggi cos'è? Anche strumento di polemica tra un'organizzazione sindacale e un'altra, che accetta determinati accordi e chi invece... E invece, Presidente, l'altra ipotesi, quella di dichiarare da parte del lavoratore, soprattutto nei trasporti pubblici, se aderisce allo sciopero o no, farlo preventivamente, in modo che si sa quanto è l'adesione ipotetica prima e che ne so, io che devo portare mio figlio all'asilo nido, so se posso andare con i mezzi oppure no. Io da anni mi sto battendo in primo luogo in questo settore. Lei pensi, i genitori debbono poter sapere di fronte alla programmazione di sciopero se quel giorno devono restare a casa perché i bambini non possono essere portati all'asilo, alla scuola elementare, o se invece possono andare a lavorare. Quindi in quel caso andrebbe sicuramente attuata. Il problema si pone nel trasporto, soprattutto per il trasporto aereo, perché cosa è successo in questi ultimi anni? C'è una programmazione di sciopero. Cosa succede? I voli vengono soppressi, perché non è che l'aereo può restare in aria, e allora, o comunque non ci sono le prenotazioni. Cosa succede? Magari all'ultimo momento c'è una revoca dello sciopero, oppure c'è una scarsissima adesione e intanto il danno si è creato. Sì, il traffico c'è, la gente non si informa, prende la macchina, intasa le città. Fa la macchina quando può prendere la macchina. Sì. Quindi questo è il punto fondamentale, perché ci deve essere una certa proporzione. Io capisco, i lavoratori quando rinunciano alla retribuzione, tenga anche presente, io devo dirlo perché sono dati statistici, su 1000 lavoratori in turno, magari 150 scioperano, altri 300 o 400 quel giorno sono assenti per altri motivi, si tratta poi di dire che ci sono gli altri motivi. Io rispetto molto quelli che perdono la retribuzione facendo lo sciopero, ma naturalmente da questo non possono derivare conseguenze abnormi, anche perché sennò i titolari dei diritti, i cittadini, sono stati di queste manifestazioni. Sì, i cittadini sono abbastanza stanchi e arrabbiati, lo vedo anche nelle sms, 800 24 00 24 per intervenire. Allora, vorrei Cazzola e Ferrero sulla questione. Innanzitutto un parere su cosa sta succedendo. Partirei da Cazzola, non fosse altro che Frati ha detto scioperiamo contro il governo. Insomma, lei Cazzola non fa parte del governo, ma del Popolo della Libertà. E tra l'altro è ex sindacalista di lungo corso. Come la vede questo sciopero improvvisato? Ma guardi, io non posso che vederlo male, anche perché credo che sinceramente è difficile trovare una qualche ragione, una qualche ragionevolezza nella attuale situazione della Vertenza Alitalia, perché io faccio fatica a avere alternative rispetto alla situazione attuale. Certo, uno potrebbe dire che ci sono stati in passato degli errori, che alcune cose si sarebbero potute evitare o realizzare in qualche modo migliore, anche se un'azienda morta ormai, un'azienda praticamente fallita, avrebbe dovuto comunque fare i conti con problemi di ristrutturazione, quindi anche di riduzione degli organici, con problemi di cassa integrazione, con problemi di mobilità, qualunque fosse stata la soluzione imprenditoriale. e quindi trovo che sia una follia questa in cui siamo infilati. Credo tra l'altro che l'opinione pubblica non ne possa più di questa situazione. Tenga conto che i dipendenti all'Italia sono stati previsti, sono stati garantiti per loro, a loro, tutto quanto il sistema, con tutti i limiti che ha, dà sul tema degli ammortizzatori sociali. Ferrero, lei ieri ha manifestato solidarietà nei confronti dei lavoratori dell'Italia, di questi che scioperano, di questa piccola parte, o di quelli che del fronte del no? Perché anche lì c'è una spaccatura, non si capisce bene, non c'è più unità, insomma, anche tra chi protesta. No, io ho manifestato solidarietà nei confronti dei lavoratori all'Italia complessivamente, che sono complessivamente piuttosto esasperati per una situazione drammatica, perché qualsiasi esperto del settore, non sto parlando dei sindacati, dice che all'Italia è arrivata dove è arrivata perché la gestione che nel corso degli anni è stata fatta è stata disastrosa. E perché su questa situazione disastrosa il governo attuale ci ha messo il carico da 90, impedendo prima qualsiasi trattativa con Air France diretta e dopo facendo il mallevatore di questo accordo su CAI, che è un accordo in cui non c'è nessun piano industriale, si sa già che quella roba lì non tiene in piedi com'è, e in cui il numero di persone che viene buttata fuori degli appalti, dei sottoappalti, o che vede peggiorare le proprie condizioni salariali o che vede peggiorare le proprie condizioni contrattuali è altissimo. Allora, tra i lavoratori all'Italia c'è un'idea chiarissima ed è: ci hanno gestiti malissimo, tutte le volte che abbiamo denunciato gli sprechi e tutto il resto, tutti, compreso il sistema informativo, ha fatto orecchie da mercante. Adesso regalano sostanzialmente la compagnia a un gruppo di imprenditori italiani e noi ne paghiamo i costi. Questo è il sentimento tra i lavoratori. In questo senso la mia solidarietà è a tutti, e per quanto mi riguarda penso che il problema sia di attuare una strategia di vertenzialità, di lotta e di relazione con l'opinione pubblica più efficace della lotta che di ieri, che dal punto di vista del rapporto con l'opinione pubblica non è molto efficace. Cioè, quindi secondo lei è sbagliato questo sciopero? No, così. Io penso... Non è la misura più efficace, insomma. Vorrei che fosse chiaro. Io penso che l'esasperazione che c'è tra i lavoratori, ed è tra i lavoratori che è saltata questa cosa dello sciopero prima che una sigla sindacale o l'altra, questo è il punto, che lì c'è gente che è da mesi che è sotto pressione, a un certo punto si sono rotti le scatole perché vedono arrivare il muro contro cui pesteranno la testa e hanno fatto la cosa più semplice che accade, cioè che uno dice: sai che c'è, non me ne frega niente, buonanotte, c'è lo sciopero. Spero che si riesca in questi giorni a determinare un percorso di conflitto più efficace, che veda anche assieme, spero, le istituzioni locali di Roma e del Lazio. Ieri sera c'era anche il presidente della regione Lazio a questa iniziativa ed è stato chiarissimo sui risvolti inaccettabili dell'accordo fatto su CAI, per riuscire a cambiare questo accordo e modificarlo, perché altrimenti è un disastro per quei lavoratori, per le casse dello Stato, ma è un disastro anche perché l'Italia perde un altro pezzo. Sì, su questo bisogna dire che insomma la CAI ha già detto che non si riapre nulla. Agenzia ANSA, nonostante la precettazione, proseguono a Milano gli effetti di questo sciopero di base, soprattutto per gli strascichi dei problemi di ieri. Sono per esempio a Malpensa 19 i voli cancellati per il momento dall'Italia, 12 in partenza e 7 in arrivo. Ferrero, perché Cazzola un attimo ci ha lasciato con la linea che è caduta. Ferrero, che ne pensa di cambiare la questione degli scioperi? Per esempio, fare un referendum consultivo tra i lavoratori e il lavoratore dichiari prima di aderire allo sciopero oppure no, in modo da sapere io, utente, cosa mi aspetta domani. Che ne pensa? Ma penso questo, che quando i minatori inglesi hanno fatto sciopero per un anno, e quindi diciamo c'era un qualche grado di adesione a quello sciopero, perché altrimenti non stanno fermi un anno, una categoria, nell'84, rifiutarono di fare il referendum che è previsto dalla legge inglese, perché il referendum in Inghilterra sullo sciopero viene gestito dal governo e il sindacato era convinto che il governo, che era anche la controparte, non solo il garante, avrebbe truffato sui dati. Quindi io l'idea di affidare il diritto di sciopero in mano a qualche organismo che in qualche modo ha delle superfici di contatto col governo e in ogni caso non è controllabile dai lavoratori, sono contrario. Secondo, quindi al garante che in questo caso è rappresentato da Martone, però il referendum tra i lavoratori, voglio dire, è solo che poi bisogna vedere chi fa le urne, come si distribuiscono le schede, perché le elezioni sono una cosa seria e in Italia grosso modo avvengono in modo civile, però c'è, diciamo, tutto un ambaradan, c'è tutta una costruzione formale, democratica per garantire le elezioni. Io di avere delle robe che dispongono di un mio diritto, che è un diritto costituzionale, quello di poter dire di no come lavoratore a non recarmi a lavorare per protestare, di metterlo in mano a qualcun altro, francamente mi sembra una legge che non capisco. Ma soprattutto, farei notare a Sacconi, perché non è d'accordo a fare una legge quando c'è un accordo firmato dal sindacato debba essere sottoposto a referendum? Perché questo è il vero problema. Ci sono delle sigle sindacali che firmano degli accordi e non rappresentano nessuno di quel settore, o quasi nessuno, e poi quei lavoratori si devono adeguare in virtù di un diritto divino delle sigle. Stiamo scherzando. Allora, questo è il vero problema. No, su questo è il punto interessante, anche per uscire dalla stretta cronaca, insomma, partire come cambiare la normativa che regola gli scioperi, soprattutto dei trasporti pubblici. E allora, prima di andare da Giuliano Cazzola, insomma, a replicare a Ferrero sulla questione del referendum tra i lavoratori prima dello sciopero, due ascoltatori, se sono veloci e sintetici, come sempre. Grazie. Giacomo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, senta, no, il mio è un intervento di tipo abbastanza generale, soprattutto in quanto riguarda lo sciopero in termini dei servizi pubblici. Ora non entro in merito all'Italia, dove parlano tutti, pochi sanno e quei pochi qualche volta non dicono tutto. Ora, il punto è come mai per i servizi così fondamentali si iniziano a discutere i contratti quando sono già scaduti da sei mesi, da un anno, a volte da due. Ma a chi giova questo gioco delle parti? Chi prende vantaggio? Certamente chi ne ha svantaggio sono tutti i cittadini. Ecco, stavo dicendo io. Sappiamo sicuramente chi perde, cioè noi. Insomma, cui prodest, non lo so. Però è una bella domanda. Grazie, Giacomo. Riccardo da Bolzano, buongiorno. Riccardo non c'è. Allora andiamo da Cazzola. Cazzola, vuole replicare all'ascoltatore a chi giova e poi anche, insomma, la questione soprattutto del referendum. Ferrero dice mi inquieta, mi fa paura l'idea di un referendum, che poi chi controlla tra il referendum tra i lavoratori, qual è come si vota, l'organizzazione, le urne. Di certo non gli piace l'idea di un garante terzo che è possibile vicino anche al governo. Cazzola. Ma guardi, io sono in disaccordo su tante cose che ha detto Ferrero, tra l'altro sono stato anche abbastanza in difficoltà ad ascoltarlo perché ero collegato con è caduto un attimo. Però ecco, sul referendum anch'io sono abbastanza freddo, perché in realtà mi pare che il discorso però lo si potrebbe fare anche quando si fanno dei referendum che sono magnificati da Ferrero e i suoi, dalle organizzazioni sindacali, che riguardano, non so, un contratto di lavoro, riguardano, anche in quel caso si potrebbe dire, ma chi controlla, chi guarda, che garanzie abbiamo, quindi il discorso ci porterebbe lontano, però tutto sommato anch'io credo che non sia, che in una situazione come questa è difficile trovare una regola che sia come la pietra filosofale che risolve i problemi. Sono processi sociali difficili da gestire e ci vuole molta pazienza. Io credo molto di più in una situazione di sanzioni, che tra l'altro esistono già e che bisognerebbe verificare perché non sono applicate. Perché Martone ci ha detto, poi qui Martone ha già detto che in realtà Martone è stato un po' reticente su questa cosa. Questo Martone, io gliela rifaccio la domanda, so che voi avete tutti i dati, ma sono applicate oppure no? Cioè, voglio dire, perché il ministro Sacconi in un'intervista ha detto di quasi no. Solo due precisazioni. Il garante non è che è vicino al governo, siamo nominati dai presidenti e dei rami del Parlamento e ci sforziamo di essere in posizione di equilibrio fra diritto di sciopero e diritti dei cittadini, degli utenti. Aggiungo solo per precisazione che il diritto di sciopero è previsto dalla Costituzione, ho detto, lo rispettiamo pienamente, ma la Costituzione dice che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, e ci sono reiterate sentenze della Corte Costituzionale che hanno stabilito quali limiti devono essere posti per tutelare i diritti dei cittadini. Fatta questa premessa, il referendum, io non dico che deve essere gestito dal garante, devono, cioè, in certi settori, in via sperimentale, fatto l'esempio dei controllori di volo, che a volte hanno bloccato l'intero trasporto aereo, poche decine di persone. Ho fatto l'esempio della scuola, dove bisogna sapere prima se no questi bambini non possono essere portati all'asilo. Sono niente in contrario che se lo gestiscano stesso le parti sociali. Perché poi non è vero, se ne fanno di referendum tanti. L'importante è questo, che la volontà di pochi non possa condizionare gli altri lavoratori e si incidere sul servizio. Lo sa chi sta subendo il danno maggiore dei lavoratori? Proprio dall'iniziativa di ieri, perché ormai tutta l'opinione pubblica è contro i lavoratori. Questa è la sostanza. Cioè ormai, perché questo? Perché si fanno dei comportamenti che vanno solo a danno dei cittadini. Ecco, questo è tutto. Io l'ho recuperata l'intervista che ha fatto Sacconi di recente all'Espresso a dire, me la confermi o me la smentisca Martone, nell'anno e mezzo da gennaio 2005 a giugno 2006 sono state applicate 2.621 per 2.621 scioperi e 48 sanzioni collettive per un importo complessivo di 300.000 euro. Secondo Sacconi è una cifra ridicola. È vera la cifra? Attenzione, lei sa cosa prevede la legge su questo? La legge prevede che la sanzione può andare fra 2.500 euro, sì, e nei casi gravi 25.000 euro. Sì. Questo è il punto fondamentale. Per i lavoratori non è che sono previste sanzioni economiche, è previsto soltanto che si può disporre che il datore di lavoro apra i procedimenti disciplinari. Perfetto. Cosa succede? Le sanzioni sono per i sindacati, insomma. Trattenendo i contributi sindacali e i procedimenti disciplinari avvengono, direi, quando ormai magari lo sciopero è cessato, c'è raggiunto l'accordo tra le parti, allora il datore di lavoro è in respiro ad applicare queste sanzioni. Proprio per questo facevo riferimento, affidiamo l'applicazione delle sanzioni anche all'amministrazione delle finanze. Facevo l'esempio dei divieti di sosta, oggi ricevete le cartelle per il divieto di sosta, perché non si può applicare anche in questi casi. Problema diverso è quello invece delle precettazioni. Nel caso della precettazione, la sanzione deve essere applicata direttamente dal prefetto o dal ministro o dal ministero nel caso che non venga rispettata la precettazione. Comunque è chiaro, anche il regime delle sanzioni va forse rivisto. Comunque sono quelle le cifre, Martone, lei le conferma, sono quelle le cifre che ha detto in questa intervista? Guardi, adesso qui non ce l'ho qui con me, ma se probabilmente l'avrà desunte stesso dei nostri dati. Avrà desunte dai suoi dati, sì, quindi sicuramente sì, così. Quindi io adesso non voglio su questo punto... No, ma è chiaro. Io vorrei per un attimo tornare da Fabio Frati, coordinatore nazionale CUB Trasporti, appunto quelli arrabbiati. Senta Frati, lei dice a noi dispiace, disagi, la collettività, si dice sempre così quando dite purtroppo siamo costretti a questa cosa, però partiamo da due dati di fatto, quello che state facendo è illegale e questo, insomma, c'è una legge e la legge vieta fare quello che state facendo voi. E secondo, insomma, gli utenti ci dispiace, perché lo fate, però insomma non c'è nessun'altra arma per combattere. Ma guardi, se diciamo i comportamenti che sono stati messi in atto non rispettano le normative e le leggi attualmente presenti, così come posso dire che questi comportamenti sono stati messi in atto per rispondere ad una illegalità che la GAI vuole perpetrare, perché è anche vietato in Italia discriminare chi è disabile, chi è invalido e chi ha disabilità. Guardi che però su questo, mi scusi Frati, su questo forse c'è stata un po' di strumentalizzazione. Io non è che dico che la CAI ha smentito, cosa che peraltro ha fatto, ma voglio dire, cioè è chiaro che ha smentito. Allora lei mi può produrre un pezzo di carta in cui c'è scritto che un dipendente dall'Italia che ha un figlio disabile viene discriminato? Me lo produca, sì, perché sarebbe uno scoop mondiale. Guardi, sarebbe una cosa incredibile. Sul famoso Lodoletta, in cui dicono, dopo diciamo che ci sono state manifestazioni di dissenso anche da parte di tutte le organizzazioni dei disabili, che praticamente verrà assunto solamente chi ha un figlio disabile minore. Chi ha un parente, un figlio disabile maggiorenne, è uno dei criteri in cui la CAI... C'è scritto così. Dice che praticamente sarà a titolo di privilegio solamente chi ha un minore. Il problema, è molto semplice, non, la rabbia e l'esasperazione che poi si manifesta dei lavoratori, che si manifesta diciamo nei modi come sono accaduti ieri, testimoniano un fatto che non è che si può pretendere. Io lo so che diciamo il cittadino normale vorrebbe non avere rotture di scatole, però non ci si può chiedere di morire in silenzio e neanche di sporcare il pavimento. No, sa com'è, voglio dire, il problema è che in Italia succede quello che non succede in tanti paesi, voglio dire, europei all'avanguardia come noi, magari non su questo settore, siamo un po' indietro, però insomma non è una pretesa da poco poter sapere se si può prendere un aereo, poter sapere se laddove invece c'è uno sciopero proclamato come ieri quello dei trasporti, tutto legale, tutto organizzato, uno si organizza e anch'io ieri sono stato in metropolitana insardinato insieme ad altri, ma lo sapevo e basta, l'ho fatto, cioè non c'è problema, insomma uno si adegua per una giornata. Mi lasci dare un ascoltatore e poi vado al traffico. Lorenzo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, stavo parlando appunto di questi referendum, visto che questi qua sono così spavaldi, per me l'unica è proprio quella di fare il referendum e senza problemi, farlo con i nomi e cognomi, che almeno si sa fatti chiari. E poi cioè lei dice, guardi, il referendum tra i lavoratori interno, cioè non è un referendum dove tutti andiamo a votare, prima di uno sciopero... Lo facciano come vogliono, però di sapere fatti chiari chi è che lo vuole e chi non lo vuole, e qua si sa bene come sono le cose veramente. Seconda cosa velocemente, secondo me Berlusconi ha sbagliato tutto, e questa qua della appunto di Stoli Italia, secondo me saranno proprio le ali che la manda giù in picchiata, perché sta toccando troppo il cittadino. Grazie Lorenzo. Ferrero, c'è da dire però che nei trasporti pubblici soprattutto succede una cosa in Italia che negli altri paesi non succede. Oggi lo ricorda anche Pietro Ichino in un'intervista al Riformista, insomma, a dire da 20 anni in qua si sciopera mediamente una volta al mese, anche la settimana dopo che il contratto è stato rinnovato, una cosa che non avviene neppure in Francia, dove peraltro sono frequenti anche lì gli scioperi nei trasporti pubblici. Perché questo settore, secondo lei, non c'è un sapere da parte dei sindacati, anche le sigle minoritarie, di avere un'arma molto forte e quindi se ne abusa? Ma diciamo, per quanto riguarda la vicenda all'Italia, c'è una particolarità italiana, perché in Germania, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, che sono paesi paragonabili al nostro, il governo, gli stati hanno tenuto in piedi una compagnia di bandiera e fatto funzionare le cose, perché sanno che quello di avere una compagnia di bandiera è una carta, è una tu dentro la globalizzazione per il paese, e invece qui si è mandato tutto a quarte 48, e quindi effettivamente c'è una differenza, che in altri paesi hanno classi dirigenti degne di questo nome, e questo a mio parere un po' di meno. In secondo luogo, questa storia che i contratti vengono regolarmente lasciati scadere e bisogna scioperare per aprire le trattative è una cosa incivile, però questo riguarda i datori di lavoro, perché questa è la condizione, che sovente gli autoferrotranvieri devono scioperare per poter vedere aperte le trattative. Scusi, non è anche incivile un contratto che scade ogni 2 anni, ogni volta la contrattazione unica, ogni volta questi tavoloni in cui si riuniscono? Se lei fosse d'accordo, potremmo avanzare la proposta di rimettere la scala mobile, così l'inflazione la recuperano automaticamente i lavoratori, invece che dover far sciopero per avere il mantenimento del potere d'acquisto degli stipendi, perché questo è il problema. Vabbè, no, a parte non essere d'accordo, ma non sono io la sua controparte. Infatti le proponevo un accordo, sarebbe una notizia. No. Dice, c'è un accordo per rimettere la scala mobile in modo che la gente deve scioperare di meno per avere semplicemente il mantenimento dello stipendio, perché qui il nodo è che lo slittamento dei contratti serve a ridurre gli stipendi, perché se io li rinnovo sempre in ritardo, alla fine ne mangio uno. Così succede. Questa è la cosa drammatica che c'è, e lì secondo me invece bisognerebbe garantire che il rinnovo dei contratti avviene a avviene tempo prima. Debito che si aprono le trattative. Cazzola, anche questo secondo lei è un punto replica Ferrero, so sulla scala mobile trova magari un appoggio a lei. Non è una notizia se trova un appoggio mio che non c'è, ma forse se no, trova no, il suo è un appoggio. No, non lo trova. I contratti non sono mica una variabile indipendente. Noi parliamo di aziende che sono fallite o comunque ovunque in perdita, che per rinnovare i contratti hanno comunque bisogno di qualcuno che gli dia delle risorse. Quindi insomma non è che possiamo sempre ragionare come se certi tipi di contratti fossero dovuti. E poi abbiamo una situazione, per esempio, nel pubblico impiego dove è invalso l'uso strumentale, se si vuole, comodo, a cui si sono rivolti tutti i governi. Ricordo a Ferrero che parla di questa classe dirigente, che lui è stato ministro del paese, no? Lui ha fatto parte di un governo in qualità di ministro, quindi parlava anche per me e per sé, e che si mettono pochi soldi nella finanziaria per i contratti, proprio perché in questo modo si possono fare altre operazioni su altre cose, su altre vicende. Brunetta questa volta non si è comportato così, nel senso che ha messo, se si vuole, poche risorse, ma risorse che c'erano all'inizio dell'anno e che ci sono all'inizio dell'anno. Poi dopo si apre una trattativa con le organizzazioni sindacali, si arriva a definire un accordo e a questo punto diciamo la cosa slitta l'anno successivo. Però per esempio non è il caso di tutte le aziende di trasporto, però nel pubblico impiego gli arretrati li hanno sempre presi tutti. Quindi che nel giro di alcuni anni ci si giochi un contratto è vero per certi settori, ma non è vero in generale. Tra l'altro voglio ricordare, no, perché per la questione del referendum, per esempio, io voglio ricordare che in Germania, in Inghilterra, Olanda e Grecia c'è, per esempio. Però lo fanno per contratti nazionali, lo fanno, loro hanno un sistema diverso, no? Anche soprattutto non hanno una contrattazione frantumata e in mille rivoli come la nostra, e poi non mi ricordo neanche più a quanta sindacale esplosa in tutte le direzioni come la nostra. Non mi ricordo neanche più a quanta tipologia di come numerica di contratti siamo arrivati, no, in Italia, ma voglio dire forse più di 300. Della reazione agli scioperi, io vorrei ricordare due cose. Al di là delle sanzioni applicate come Dio vuole, io credo che ci sia un principio generale del diritto, che è questo: inadimplenti non est adimplendum. Quindi io credo che bisogna smettere di pagare e di riscuotere la contribuzione sindacale per quei sindacati che violano la legge sullo sciopero, che bisogna smettere di erogare i permessi sindacali a quei sindacati che violano, bisogna affamare la bestia. Questa è la strada da seguire, sulla base di un principio del diritto che ci viene dal diritto romano. E quindi non credo che si debba fare sanzioni, precettazioni che poi dopo alla fine non vengono. Ma non dare permessi sindacali, ritirare. Cioè, quando un sindacato viola la legge, tra l'altro una legge che è stata definita sulla base di un codice di autoregolamentazione voluto dalle organizzazioni sindacali, a questo punto le imprese sono legittimate sulla base, se si vuole, di un ordine che può venire dalla magistratura o che può venire anche da un'autorità legittimata a farlo, sono legittimate a sospendere la raccolta dei contributi sindacali e non dare più l'ora di permesso. Beh, questa è una proposta, peccato che arrivi in chiusura. Ferrero, vuole replicare 30 secondi su questo? Cioè non andare con le sanzioni che poi chissà che le riscuote, ma colpire prima, cioè eliminare i permessi sindacali, per esempio, verso chi è inadempiente, verso chi viola le regole, non verso chi esercita un diritto sancito dalla Costituzione, dello sciopero, tutto in regola come è avvenuto ieri, nei trasporti locali. Sì. Come Cazzola ha sentito anche dall'esponente della CUB, la CUB dice se c'è la precettazione la rispettiamo. È chiaro che questi meccanismi avvengono quando i lavoratori sono esasperati, al di là della tessera sindacale che hanno in tasca o che non hanno in tasca. Cioè mi sembra che tentare di affrontare neanche più con il sistema delle sanzioni, ma diciamo con una cosa più dura sulle organizzazioni sindacali, non risolve nessun problema, perché queste cose capitano quando c'è un'esasperazione tra i lavoratori che non si riesce a comunicare in altri, che non si riesce a far notizia, sì. Perché tutte le cose che i lavoratori dicono sull'Alitalia non sente nessuno. Allora ho capito benissimo, c'è anche il cellulare che fa un po' le bizze. Vediamo se Antonio da Napoli mi chiude la trasmissione, ma sia conciso. Antonio, sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo dire, io sono lavoratore dipendente da 32 anni alle dipendenze di un'azienda privata. Sì. Non sono assolutamente d'accordo che dello sciopero si fa un abuso eccessivo. Per quanto mi riguarda, penso che oggi ci sarebbe qualche motivo in più di fare sciopero, perché con gli stipendi che ci sono in giro, in particolare nelle aziende municipalizzate di trasporto, dove un autista guadagna 1.000-1.100 euro al mese, ci sarebbe un motivo valido ogni mese per fare sciopero. Invece non si fa questo. Il ministro Sacconi vuole rimediare, sì, a una situazione di confusione eccetera in questa maniera. Non sono d'accordo. Va corretto qualcosa, tipo limitare le cedole famose dei sindacalisti, che ce ne sono troppi, che non lavorano, parecchi di loro non si trincerano nel sindacato per non lavorare. Va bene, grazie Antonio, abbiamo capito benissimo il senso del suo intervento. Con lei conclude, la ringrazio tutti gli ospiti e in redazione Elisabetta Fusco, Alessandro Marcotulli, Giorgio Matei in regia. Potete scriverci viva voce @radio24.it. A domattina. Viva voce.